già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Allora, eccoci qua, benvenute alla chart numero 9. 8, ma che 9? 9, siamo alla 9. Siamo alla 8. Siamo alla 8, va bene. 9, 8. Una puntata specialissima perché appunto avete raccolto, qualcuna di voi ha raccolto l'invito che vi avevamo fatto di mandarci una vostra chart fatta insomma insieme a un'amica, una sorella, un amante o quant'altro. E insomma qualcuna di voi l'ha fatto, una è fisicamente in studio con noi, un'altra invece è, non poteva esserlo visto che sta molto lontano, ma è collegata con noi. Ci senti, Mimi? Sì, mi sento, voi mi sentite? Sì, ci sentiamo benissimo, intanto così aggiustiamo un po' l'audio prima di cominciare. E invece Cri? Ciao. Eccola qua. Allora, Pinclo, come ti senti per questa puntata speciale? Ah, benissimo, noi ci riposiamo e continuiamo a riposarci dall'ultima di dicembre, quindi stiamo a posto. No, siamo contenti, finalmente qualcuno che ci ha inviato la chart, e invito e reinvito tutte le nostre ascoltatrici a farlo. C'è il form sul blog per vedere un po' come si fa, e poi se voi avete ascoltato la trasmissione come si fa in realtà lo sapete già. E comunque womenchart.wordpress.com, e poi i podcast nostri li trovate anche sul blog ovviamente dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org. potete giocare con noi, ma stiamo dobbiamo pensare ai gadget qua, sì. Ai premi in palio per le vostre chart. Intanto insomma cominciamo con questa, intanto la prima domanda, perché ne parlavamo prima, quindi secondo me è una cosa bellissima. Voi avete giocato, Cri e Mimi, intanto qual è la vostra personale connessione e dov'è Mimi? Allora, la nostra connessione è che siamo sorelle, infatti la nostra chart si chiama Sister So Far So Near, perché lei vive da settembre in Cina, a Beijing. E niente, abbiamo preso, diciamo, abbiamo deciso di giocare mandandoci delle cantanti, anche per così la scusa per sentirsi ogni giorno, oltre a dirsi ehi, ciao, come stai? E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Insomma, è una puntata speciale anche per questo, insomma. Mimì, se ci senti, insomma, tu sei quella che comincerà la chart di quest'oggi. Sì, eccomi. Allora, sì, ho iniziato questo gioco con mia sorella, proposto, che mi è stato proposto da lei, e con prima connessione ho scelto Anna Calvi, perché come spiegavo era, diciamo, è connessa a me in un certo senso, è connessa a me con una storia di un anno fa tramite persone che si incontrano, quindi mi sembrava il modo giusto per iniziare questo gioco, ecco, quindi l'ho proposto a mia sorella e poi lei ha, diciamo, abbiamo iniziato a giocare così, tramite connessioni della... Ecco, ogni tanto... ce la perdiamo, sta lontana. Capitelo, insomma, che lei è molto lontana, ci sente? Ci senti, che mi sembra che tu sia tornata? No, non ci sente, insomma... Va bene, ma noi la sua connessione, sì, Eccola. Eccola, sì. Ok. E quindi Anna Calvi è un'artista che ti piace molto. L'hai vista in concerto? Hai avuto modo di... No, ancora no, in realtà. In realtà è stata a Roma, però ancora non la conoscevo lei. Sì, mi piacerebbe molto vederla, mi piace molto la sua musica, penso che sia... È stata paragonata anche a PJ Harvey, quindi sì, mi piace molto il suo stile. Niente, spero che piaccia anche a voi. E quindi dire, annuncia la canzone che ha scelto. Va bene, quindi questa è Anna Calvi con Desire. Buon ascolto. Eccoci, lo sapete che noi mettiamo le canzoni fino alla fine. Siete all'ascolto di The Chart, sono 17:30. Siamo a una super puntata speciale. Quello che sentite non è che stiamo giocando con i suoni, ma siamo in collegamento con su Skype, siamo in collegamento sul, insomma, via computer. E perché? Perché stiamo facendo una chart che non è la nostra, non è né mia né di Dona, ma stiamo ospitando una chart che ci è stata inviata e un pezzo ce l'abbiamo in studio, un pezzo ce l'abbiamo in Cina. Internazionali quest'oggi. E insomma, abbiamo appena ascoltato Anna Calvi, tra l'altro, insomma, fra pochissimo, a fine febbraio, Anna Calvi sarà in tournée anche in Italia, quindi lo diciamo per le appassionate, insomma, che potranno vederla in un po' di città, compresa Roma, ma in giro per l'Italia. E Anna Calvi porta a? Anna Calvi porta Janelle Monae, nel senso che una premessa, nel senso che queste connessioni in realtà le abbiamo fatte seguendo le regole, cioè io non so un po' come giocano le conduttrici di The Chart, nel senso io non so quali siano le connessioni che ha fatto mia sorella. È una cosa che mi stupiva e che anch'io per la prima connessione sono partita un po' da qualcosa che mi riguarda, nel senso che mia sorella, pur essendo più piccola di me, mi ha sempre aperto a nuovi orizzonti musicali, quindi mi sono detto ok, questa volta vado a cercarmi delle cose un po' più interessanti anziché fare una connessione che poteva essere, ne so, PJ Harvey. Quindi sono andata un po' a cercare delle notizie su queste due cantanti e pare che entrambe nel loro album, Anna Calvi nell'album che si chiama Anna Calvi appunto, e Janelle Monae nell'album che si chiama Earth Android, passatemi l'inglese, sono entrambe state influenzate dalla musica di Debussy, per cui ho deciso di farvi ascoltare una canzone che si chiama O Maker, e quindi buon ascolto a tutte. Hear the drizzle of the rain, it's falling from my window. And in the corners of my mind, I hope that I'll get to see you again. La-da-da-da-da-da-da-da-da. My friend, I hear the colors in the flowers. Snuffed at dawn, you're here, you're near, you're there, and then you're gone. La da da da da. Eccoci qua, allora Janelle Monae, appunto questo pezzo, non mi ricordo come si chiama, come si intitola? O Maker, appunto era tratto dal primo album di Janelle, che era appunto intitolato Earth Android, era una sorta di concept album, la storia di un androide, di una donna androide che si innamora di un uomo, ma appunto per motivi di restrizioni sociali rispetto a, insomma, al vivere insieme tra un androide e un umano, non possono stare insieme, quindi insomma abbastanza interessante. Natale. Tra l'altro l'abbiamo passata un po' ogni tanto alcuni dei suoi pezzi, insomma ci piace molto, ha una bellissima voce. E Mimì, e tu come hai risposto a questa Janelle? Se ci senti. Hello? Non ci senti. Hello Pechino? Pechino non arriva, ok. Ecco, Pechino è caduta, diventa un po' difficile. Che detta così sembra. È caduta Pechino, diventa un po' difficile. Potremmo dare uno scoop mondiale, è caduto Pechino, e mettere in allarme. Diventa un po' difficile, nel senso che siccome loro hanno giocato per davvero, proviamo a sentire se Mimì ci ascolta. Ci senti Mimì? Okay. Sì, mi sento. Voi mi sentite? Sì, sì. Sì, adesso sì. Allora, risposta Janelle. Risposta Janelle, Beyoncé. Yeah. Perché Beyoncé? Perché allora, appena arrivata la risposta alla mia connessione da parte di mia sorella, sono rimasta un po'. Non conoscevo il nome dell'artista. In realtà lei è molto famosa, la Monet, perché ha duetta in una canzone con i Fan, un gruppo che è uscito da poco. Non so se l'avete mai ascoltato. La canzone We Are Young è molto famosa. Ah, certo. Quindi ho pensato. Mia sorella è proprio giovane per la serie. quindi sì, lei nell'altro album invece, io mi sono collegato con l'altro album, lei duetta in una canzone che si chiama appunto come The Electric Lady, duetta con Solange, con la sorella di Beyoncé, quindi... Evviva! Vedi lo spirito di The Chart che si profonde. Mi sembra una fantastica connessione. Ecco la mia connessione. Era facile. Beyoncé con Single Ladies. Ecco. Ed eccola. Qui. Grazie. Ecco Beyoncé. Don't be mad at what you see, that he wanted. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad at what you see, that he wanted. If you like it, then you should have put a ring on it. Eccoci. Ed era? Era Beyoncé. Ed era Beyoncé. Era Beyoncé. E state ascoltando The Chart, per chi si fosse messa all'ascolto in questo momento. Siete sul martedì autogestiva femministe e lesbiche. Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in frequenza, in modulazione di frequenza. Ti piace dirle questa modulazione? Sì, sta... Vabbè, fa radio la modulazione di frequenza. Finché non passeremo tutti al digitale anche con questo segnale, siamo in modulazione di frequenza, quindi... In onde modulatevi. Modulatevi. Stiamo ospitando la chart di Cristina e Mimì. E... una da queste parti con noi, invece una in collegamento dall'altra parte del mondo, praticamente a Beijing, ovvero Pechino. Per chi non lo sapesse, no. Però è Beijing, sì. Assolutamente Beijing, sì. No, dico no perché penso sia a Nanchino, non è a Beijing. Dobbiamo chiederla a Mimì. Dove sei, Mimì, esattamente? Se ci senti, ci sente? No, Mimì forse in questo momento non ci sente. Mimì è crollata. Va bene, però posso, cioè, mia sorella dice ammazza quanto è giovane mia sorella. Io ho pensato mia sorella è matta perché mi manda come connessione Beyoncé. Io sono sobbalzata sulla sedia. No, perché? Che va fatto Beyoncé? Pop, più pop che non si può. Intanto lo dicevamo prima, tra l'altro, su Beyoncé, che è una donna dei record, nel senso che ha cominciato da piccolissima, insomma, con le Destiny's Child, di cui Michael Jackson. Nessuna di noi si ricorda nemmeno un pezzo, però ci ricordiamo loro tre erano, sì, esatto, sì, le amichette, insomma, tipo amiche di infanzia che hanno messo su questo gruppo. Loro proprio hanno messo su. Beh, noi, insomma, noi produttori, probabilmente qualcuno ha sentito la voce, soprattutto probabilmente di Beyoncé, insomma, che comunque è veramente molto dotata, a parte, diciamo, se piace il tipo di musica che fa o meno. E è proprio praticamente nel 97 lei aveva 16 anni, credo, insomma, le Destiny's Child hanno messo, piazzato singoli ai numeri uno delle classifiche, insomma, alle finché, chart. Sì, alle chart. E quindi, insomma, hanno vinto praticamente, lo ricordavi tu, Cree, insomma, un sacco di premi. Ma sì, più che altro loro hanno vinto, cioè sono state il trio R&B più famoso. In realtà è proprio, e invece Beyoncé che ha vinto tantissime cose, in realtà, cioè, nel senso, lei è la canzone che abbiamo ascoltato fa parte dell'album I am Sasha Fierce. E tra l'altro dopo questo album lei ha vinto tantissime cose, infatti viene definita la donna delle certificazioni, cioè ha vinto il maggior numero di Grammy, la rivista più importante, la rivista musicale più importante, quella americana, la Billboard, l'ha eletta artista femminile del decennio 2000-2010, il quotidiano inglese The Guardian l'ha eletta artista del decennio. Pare che addirittura una sua comparsa alla TV scozzese sia costata 71.000 sterline al minuto. Al minuto? È una signorina, come dire, che fa un po' di cose. Tra l'altro ha fondato una casa di profumi. Vabbè, cioè, a quel che punto fa tante cose e vince tante peggio cose. Peggio di un dentista. Sì, è anche abbastanza impegnata nel sociale, fa un sacco di cose con la sua famiglia, insomma, quindi tra una cosa e l'altra riesce un po' a redistribuire anche tutte queste sterline che le arrivano. Insomma, le mette un po' in circolo a differenza di altri artisti, quindi questo bisogna riconoscerlo. E allora, Cri, Beyoncé ti ha portato a... Beyoncé mi ha portato ad una, in realtà ad una cover, e questa secondo me apre, come dire, il pezzo della chart delle cover, perché ci siamo divise così stranamente, perché il 20 aprile 2000 le Destiny Child aprono l'ultimo concerto del Baby One More Time della famosissima Britney Spears. E ah, quindi io ho scelto in realtà una cover di una canzone di Britney che personalmente mi piace tantissimo, che è Toxic, ed è cantata da Jael Naeem. Ecco, Toxic, dobbiamo dire, è uno dei, diciamo, dei pezzi non che... Non mi guardare così subito. Tu... No, nel senso, no, lo so che tu la metti, però no, voglio dire, è uno dei pezzi che più ha entusiasmato anche artiste che non sono, diciamo, non fanno il genere di Britney, probabilmente non ascoltano nemmeno la sua musica, insomma, che fanno tutt'altro, che però in qualche modo, perché l'ho sentita in tante versioni da tante artiste, più o meno note, quindi evidentemente questa canzone in qualche modo solletica l'immaginario, solletica la fantasia, è la reinterpretazione. Come si dice, nella musica pop ha una bella melodia. E se ha una bella melodia, quella melodia la puoi arrangiare in 100.000 modi diversi, ma se quella canzone ha una melodia che regge, regge con qualsiasi arrangiamento tu la metti, compreso questo molto acustico minimale di Elnaim. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. To you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me. Il flauto al posto dell'elettronica. Vabbè, interessante questa versione, devo dire, una delle più... Comunque non sei attenta, perché il martedì l'abbiamo già passata, secondo me le nostre ascoltatrici se lo ricordano, ecco. Io l'ho messa. Telefonate allo 0649 1750 e fate felice Pink Lo, appunto confermando la sua versione dei fatti infatti siamo appunto, siete in ascolto e siamo qui in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa durante appunto il martedì femminista e lesbico autogestito con The Chart. Appunto ospitiamo, ve lo ricordiamo, una chart bossa di ascoltatrici che hanno giocato un po' come giochiamo noi, e approfittiamo del collegamento da Beijing per farci raccontare da Mimì dopo questa toxic cosa viene. Ci senti Mimì? Mimì non ci sente. Ecco, adesso era proprio quello che speravamo che non sarebbe successo, cioè che cosa succede quando Mimì non ci può raccontare qual è la sua connessione. Proviamo a inventarcela, poi ce la faremo confermare probabilmente. Dai, prova a inventartela che io intanto la recupero, perché in realtà ce l'ho. Hai la sua connessione scritta da qualche parte? Non me l'avevi detto? Ah, quindi tu sai tutto in retroscena che io non so. Ecco, allora, praticamente adesso viene la il pezzo di Fei Wong che si intitola Dreams. In realtà io posso dire che Dreams è una cover, anche questa, dei Cranberries. Ecco, Cranberries. Yes. Allora, tua sorella non la conosco ovviamente, non ci siamo mai incontrate, l'ho solo ascoltata mentre presentava alcuni pezzi, però mi sembra molto una da Cranberries. Fanno parte del suo bagaglio, tu che la conosci da più tempo, fanno parte del suo bagaglio culturale? Ma in realtà non proprio, cioè lei il punto è che ascolta di tutto, per cui sì, no, direi che i Cranberries non fanno per niente parte del suo bagaglio culturale. E quindi come sarà venuta fuori questa Dreams? Come ce la possiamo inventare questa connessione? Secondo me è più legata al fatto che stiamo presenteremo, cioè la prossima connessione è legata in realtà molto al posto in cui vive, se volessimo dare un'anticipazione. Ecco, perché appunto, cioè... E invece no... No, cioè, invece no. La sai? Ce la vuoi dire? Ce la sveli? Scusa. Io la so. Allora, la connessione parte da che la canzone Toxic è stata scritta da Katie Dennis, che è una cantante, compositrice, produttrice discografica britannica. Ah, ecco, perché noi questa cosa, per esempio, The Chart c'è spesso, diciamo, lei dietro le queen, dietro quelle voci, dietro le canzoni, appunto, chi ci sta, le compositrici, le produttrici che spesso nessuno conosce. La Dennis ha scritto anche, pensate un po', quindi lei è proprio una che sforna successi, perché ha scritto Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Accidenti. 2 su 2 le ha prese. Beh, cioè, si è sistemata per la vita, diciamo. Però il nostro sogno, azzeccare 2 singoli e non dover esatto. fare più niente nella vita. Posare la penna. Esatto, è proprio il sogno delle rockstar. Comunque, appunto, Katie Dennis penso che se la passi bene, nonché abbia un buon contratto, penso, discografico. E la casa discografica della Minogue è la EMI, ed è la stessa casa discografica di cui faceva parte, fa parte, la cantante cinese Fei Wong, che chiaramente, insomma, probabilmente sarà una star diciamo in loco in Cina. Devo dire, io non la conosco, quindi alzo le mani, me la presentate, me la fate ascoltare con questa cover Dreams. Se riesco a ritrovare, però in realtà noi l'abbiamo conosciuta, se amiamo il cinema, personalmente molto bello, perché lei è un'attrice di un film di Von Kar-wai che è 2046, per cui vedi. Per chi ha visto 2046, bellissimo film di qualche anno lei fa. È la protagonista di questo film. Non si finisce mai di imparare a The Chart. Dovete giocare a The Chart. Thank you. 深纠缠，说什么都太晚。梦的远，路已到了终点，回首告别昨天，我放弃对你的思念，爱已像风筝断了线，飞不回我身边。现在才学会挣脱，挣脱对爱情的困惑，不想我够洒脱。 In un tripudio di Wong, appunto. Mimì, ci senti? Sì, sì, sì. È molto molto bassa, riprova. Ehi, ci senti? Sembra che tu sia molto più lontano, tipo da Marte ti stiamo ascoltando praticamente, altro che Beijing. No, non ti riusciamo ad ascoltare, ci dispiace tantissimo. Sappiamo che tu un po' ci senti, e appunto abbiamo ascoltato Fei Wong, che era l'ultima. Comunque faceva gli acuti come Dolores O'Riordan alla fine, alla cinese, però devo dire. Noi ci, questa cosa del no, senza figurare, è bellissima, nel senso è anche interessante il fatto che oggi abbiamo messo tantissima musica varia, insomma, molto diversa l'una dall'altra. Quindi insomma vi siete proprio lasciate trasportare in queste connessioni, devo dire la verità, siete proprio... Ma abbiamo giocato giocate anche voi, giocate anche voi. www.womenchart.wordpress.com, poi appunto si vince una maglietta. vedremo, nel senso che se ci arrivano giocare, le chart, faremo una sorta di votazione pubblica, cioè voi stesse voterete le chart che vi sono piaciute di più, che abbiamo ospitato, e chi vincerà un pacchetto, diciamo, non sappiamo ancora. Cioè, addirittura la Champions League, proprio la Champions League. Lo mettevamo al momento proprio, non era prevista, speriamo di non pentircene, insomma. Quindi mandate le vostre chart e entrate in competizione con Cree e Mimì. Cree, allora, la tua ultima connessione dopo la Wong? La mia ultima connessione, visto che siamo nella fase della chart di cover, è molto semplice in realtà, perché la Fei Wong interpreta anche dei pezzi di Tori Amos, e quindi io ho pensato che potevamo chiudere questa chart con Tori Amos, che penso male non fa. Lo sappiamo tutte chi sia, però due notizie non fanno mai male, nel senso che io mentre leggevo così scartabellavo ho letto questa cosa che ho pensato wow, lei praticamente ha iniziato a suonare il pianoforte a 2 anni e a 5 anni ha vinto una borsa di studio in uno dei conservatori più prestigiosi d'America. Per cui è un mostro. Da cui l'hanno cacciata, come raccontavamo. È vero, da cui l'hanno cacciata perché non voleva imparare a leggere la musica, pare, insomma, nonostante fosse una pianista, lo raccontavamo. Ma perché quello era un genio, già la in una vecchia chart, l'ha detto: scusate, sottoriamos, non è che posso stare là a imparare come si legge la musica, sottoriamos, e quindi se n'è andata e ha formato un gruppo, lo ricordavamo. Così è brutto, cioè nel senso che è stata cacciata perché lei in realtà è una che sperimentava, non sì, perché... no, scherzo, no, no, nel senso, beh, no, però la versione ufficiale della scuola era perché sostanzialmente le mancava un, insomma, uno strumento fondamentale, no, della scuola di musica, cioè appunto il solfeggio. Lei sostanzialmente, cioè, come è giusto anche, perché secondo me l'arte non è una roba che puoi incanalare, interpretava come era da lei. Sì, parliamo di una persona che tendenzialmente quando suona i concerti live suona con due pianoforti messi praticamente uno da un lato e uno dall'altro, e li suona contemporaneamente uno con una mano e uno con l'altro. Mentre canta, ovviamente, e fa delle facce che ti aiuto, speriamo che sia di buon umore, si stia incatarsi la musica, perché se mi incontra, non lo so, io l'ho vista così una volta a Milano al teatro, che era il Teatro Smeraldo, un centinaio di anni fa ormai. E rimasi veramente tipo: mamma mia, che paura! Però non contenta, me la vado a rivedere, perché sappiate che a giugno sta a Roma. Sta a Roma e penso che faccia anche delle altre date in Italia. Quindi, sì, insomma, per chi non l'ha mai visto, la spaccata di Tori Amos mentre seduta canta sullo sgabello, gambe divariate, con due mani così, che ti fa paura. E quindi, insomma, avrete occasione di vederla. Dai, Cri, annuncia il tuo pezzo allora. Sì, allora io ho scelto Silent, oddio, mi sono persa la mia All voce. These Years. Thanks. Silent All These Years, che è una canzone che fa parte in realtà del suo album di debutto, che è Little Earthquakes. Per cui buon ascolto a tutte. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been he. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been he. Silent all these years go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by, if I'm stripped of my beauty, clouds raining in my hand. Years go by, will I choke on my tears till finally there is nothing left? One more casualty, you know we're too easy. Well, I love the way we communicate. Your eyes focus on my funny lip shape. Let's hear what you think of me now, but baby, don't look up. Sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress, and it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But What if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been questa era Tori Amos, Silent All These Years, appunto, insomma, uno dei, delle cose, delle primissime cose di Tori, e quindi insomma un bel tuffo nel passato che ci hai regalato, Chris. E quindi vorremmo, Mimì, se ci senti, vorremmo salutarti, anche ringraziarti, visto che la vostra chat è finita. La, ce l'abbiamo? Mimì, ci senti? Ecco, niente, la sentiamo lontanissima purtroppo, quindi insomma, vabbè, io vi dico che lei vi saluta, quindi faccio da interprete da Beijing, vi saluta, insomma, Mimì, noi la ringraziamo per essere stata con noi, per aver giocato appunto a questa chart insieme a Cree. Auguriamo una buonanotte, visto che lì è luna quasi. Esatto. È luna, anzi. Le auguriamo una buonanotte, insomma, e che questo sia un invito anche per le altre a partecipare. Anche perché la chart la pubblicheremo, non è che siccome non è la nostra, siamo Narcisi e non la pubblichiamo, la pubblichiamo sul blog dell'MFLA con tutti i riferimenti, le canzoni e quant'altro, come sapete, womenchart.wordpress.com. trovate il nostro podcast pure sul blog dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org. se ci volete scrivere lo sapete, mfla@andorossa.info. insomma, più o meno questi sono i nostri contatti. È martedì 21, sono le 18:09, siamo le coordinate spazio-temporali. Fra un po' inizierà l'agenda e noi ci apprestiamo appunto a chiudere questa chart. Siamo molto contente che qualcuno abbia deciso di giocare, come giochiamo noi, tra l'altro, perché non si sono svelate nemmeno loro quali erano le connessioni, quindi hanno giocato live come ci giochiamo noi ogni due martedì. E infatti appunto l'appuntamento è fra due martedì, che sarà il 4 febbraio se non sbaglio, quindi insomma alle 17:15 qui in apertura del martedì femminista e lesbico autogestito. Grazie Cree che sei con noi. Ciao, io in realtà volevo fare un doppio saluto, volevo salutare appunto mia sorella Mimì dicendogli Ni Hao Mei Mei, che lei sa che cosa significa, e l'altra sorella, visto che è una chart di sorelle, che ci sta ascoltando dalla Normandia, per cui salio Rossella. A posto. E ciao a tutte. Grazie a voi. In una sola puntata abbiamo fatto il giro del mondo. Abbiamo fatto il giro del mondo. Benissimo. Noi mettiamo per intero il pezzo che teniamo di sottofondo, che è quello della sigla, che sono gli Up in the Room con Mr. Plain Man, forse mi do fare gli occhiali nuovi, leggo una cosa per un'altra, e poi metteremo la sigla e non ve ne andate, perché il martedì continua, sta per iniziare Atti e Misfatti, poi ci sarà il GR serale a cura della nostra redazione e via a seguito il mini pimer con Visti d'Arte, il CLR con una trasmissione sull'educazione l'educazione di genere nei libri, e quindi state con noi. Ciao a presto, ci vediamo fra due martedì. Ciao.